Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Noi vogliamo far paura a chi evade, non vogliamo far paura ai cittadini che invece pagano regolarmente le tasse. Senta, chi evade deve sapere che c'è qualcuno che li controlla. Che rischiano. Ma siamo un paese di evasori irrecuperabili, secondo lei? Siamo un bel paese di evasori, speriamo di recuperarlo piano piano. Altre 700 persone sbarcate in Sicilia nel giro di 2 giorni, centri di accoglienza praticamente al collasso, intanto prosegue la conta delle vittime di Lampedusa, sono quasi 200. Oggi intanto si riuniscono i ministri degli interni e della giustizia europei, il presidente della commissione Barroso sarà sull'isola dopodomani, annuncia a Bruxelles, studia nuove misure di aiuto e supporto. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, lo avete sentito all'interno della nostra sigla, dice: penso che esista un'evasione di sopravvivenza, meno tasse vuol dire meno evasione. Oggi intanto incontro tra governo e sindacati, si ipotizza un taglio del cuneo fiscale da 4-5 miliardi. Il Nobel per la medicina assegnato a 2 americani e 1 tedesco, hanno scoperto il sistema di trasporto delle molecole all'interno delle cellule. In Egitto riesplode la violenza, almeno 50 vittime negli scontri di ieri, autobomba contro la polizia nel sud del Sinai, forze dell'ordine in allerta anche a Sharm el Sheikh e Taba. Il fine settimana calcistico consegna al campionato un terzetto di testa con Roma, Napoli e Juventus, la capolista e i partenopei alla prova dello scontro diretto tra 2 settimane, si giocherà venerdì sera alle 20:45. Una buona giornata dunque da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Facciamo il punto, come sempre, di questa giornata. Abbiamo iniziato, come avete sentito dalle parole di Attilio Befera questa mattina, intervenuto a Mix 24. Torneremo a parlarne nel corso della trasmissione. Vi stiamo anche chiedendo sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno se secondo voi, come dice Befera e come disse Fassina, esiste un'evasione di sopravvivenza. In apertura però vogliamo tornare ancora oggi a parlare di immigrazione. Mentre le forze politiche discutono dell'opportunità unità o meno di cambiare la Bossi-Fini, mentre l'Europa inizia ad interessarsi alla vicenda, Barroso sarà a Lampedusa mercoledì, prosegue la conta delle vittime e nel resto della Sicilia proseguono gli sbarchi. In diretta da Lampedusa l'inviato del Sole 24 Ore, Mariano Maugeri. Mariano, buongiorno. Buongiorno. Allora, com'è la situazione stamattina innanzitutto? Ma si continua nell'attività appunto di ricerca delle vittime, siamo a 196 in questa conta tristissima, sono state recuperate 2 donne alle 11 e il fatto che in queste 2 ore non siano stati ripescati altri cadaveri dà il senso di quanto il lavoro diventi adesso più complicato, perché i cadaveri che sono rimasti dei naufraghi sono dentro la stiva, pare uno sull'altro, uno incastrato sull'altro, ci sono dei racconti raccapriccianti fatti appunto dai sommozzatori che in queste ore si alternano al largo di Cala Croce, alla Tabaccara, la zona in cui è avvenuto il naufragio. Mariano, questo è il quadro per quanto riguarda Lampedusa, ma c'è anche un quadro che riguarda il resto della Sicilia in queste ore. Sono circa 700 le persone sbarcate solo nella zona di Siracusa nelle ultime 24-48 ore. E naturalmente, ancora una volta, la situazione dei centri di accoglienza è ad altissimo rischio. Sì, ormai i fronti sono 2. Lampedusa, storicamente appunto il fronte caldissimo, e adesso quello Siracusa-Ragusa della Sicilia meridionale per via dei siriani e non solo, stamattina sono arrivati appunto a Siracusa, come ricordavi tu, 155 siriani e a Pozzallo in provincia di Ragusa 200 migranti, tra cui un piccolo gruppo di siriani e altri ancora di incerta nazionalità. Sì, i centri di accoglienza ormai esplodono ed è verosimile supporre che nei prossimi giorni ci sarà una nuova emergenza, ma probabilmente un ragionamento andrebbe fatto anche sui mezzi che devono contrastare questa migrazione biblica che torna alla fase acuta come quella del 2011 quando arrivarono 50.000 tunisini. A Lampedusa la Guardia Costiera può contare su 80 uomini che operano 24 ore su 24 e 5 mezzi. Ecco, alla luce di quello che sta accadendo, forse questo contingente andrebbe rafforzare con dei mezzi tecnologici, per esempio l'uso di satelliti più tecnologicamente sofisticati che possono individuare meglio queste imbarcazioni. Grazie, grazie per questi aggiornamenti. Mariano Maugeri, nel frattempo, come si diceva, il presidente della Commissione europea, José Manuel Durão Barroso, sarà sull'isola dopodomani. Ha fatto sapere che Bruxelles sta studiando nuove misure di aiuto e di supporto ai paesi che si trovano a fronteggiare questi problemi. Nel frattempo oggi si riuniscono i ministri degli interni e della giustizia europei, naturalmente era una riunione prevista da tempo e però naturalmente e presumibilmente della questione immigrazione e dei fatti di Lampedusa si parlerà. Vedremo come evolveranno le notizie da questo punto di vista nel corso della giornata. Noi torniamo all'Italia. Iniziamo, come si diceva, da un'intervista realizzata da Radio 24. È stato ospite questa mattina di Giovanni Minoli a Mix 24 Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, e ha detto una serie di cose, alcune le avete sentite in piccola parte all'inizio della trasmissione, all'interno della nostra sigla. Adesso vi facciamo sentire qualcos'altro. Vi stiamo chiedendo sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno se esiste un'evasione di sopravvivenza. Più avanti nel corso della trasmissione intervisteremo anche una persona che si ritiene un evasore di sopravvivenza, ma sentiamo intanto che cosa ha detto Befera. Quest'estate perfino un politico di sinistra come Fassina ha detto: capisco l'esistenza di un'evasione di sopravvivenza. Ecco, si è sentito abbandonato o c'ha ragione Fassina? No, assolutamente no, ci sono vari tipi di evasione, noi cerchiamo di combatterli tutti, ovviamente la massima intensità sui grandi evasori, ma cerchiamo di fare una strategia diversificata. Ma quindi l'evasione di sopravvivenza può esistere? Penso di sì, ma non essendo io un evasore lo so. Senta, ma se la pressione fiscale fosse minore, sarebbe meno, ci sarebbe meno evasione, secondo lei? Ah, indubbiamente, perlomeno ci sarebbe meno evasione da carenza di liquidità. Cioè è folle la pressione fiscale che c'è. Questo non sta a me giudicarlo. Così dunque Attilio Befera. Nel frattempo è una giornata di incontri quella di oggi per l'esecutivo e si parla anche di fisco. Alle 18.30 il primo confronto con le parti sociali per discutere della legge di stabilità. Si torna ad ipotizzare un taglio del cuneo fiscale, ossia molto semplicemente delle tasse sul lavoro, intorno ai 4-5 miliardi di euro. Il problema resta sempre quello: dove reperire le risorse. In diretta Alessandra Schepisi da Montecitorio. Buongiorno Alessandra. Eh sì, buongiorno. È così, la riduzione del cuneo fiscale è il cuore di questa legge di stabilità, ha detto ieri Enrico Letta, e dunque il tema della riduzione delle tasse sul lavoro sarà al centro dell'appuntamento di questo pomeriggio tra governo e sindacati, mentre con le imprese è previsto un incontro nei prossimi giorni. La misura, secondo il Premier, porterà benefici concreti per i lavoratori italiani già dal 2014, così come vantaggi per le imprese che saranno così incentivate ad assumere. Il tema, come sappiamo, è da sempre caro ai sindacati che chiedono una svolta in questo senso. Allora sentiamo il leader della CISL Bonanni, intervistato questa mattina a Mix 24 da Giovanni Minoli. Sentiamo. Questo incontro deve aprire la strada a una discussione trasparente, definitiva, che raggiunga l'obiettivo che noi perseguiamo come sindacato da diverso tempo, e cioè una prima inversione di rotta sulle tasse. Devono tornare nelle tasche dei lavoratori una parte delle troppe tasse che pagano, che hanno indebolito le loro famiglie, ma ha indebolito anche la famiglia Italia, perché i consumi sono ridotti al lumicino e nessuno compra, e quindi le aziende, essendo noi un paese manufatturiero, riducono il personale. È un circolo vizioso. È un intervento, quello sul cuneo, che come dicevi anche tu Simone potrebbe valere 4-5 miliardi di euro secondo alcuni calcoli dei sindacati. Per ogni miliardo di euro di spesa mediamente i salari avrebbero un aumento di circa 100 euro. Ovviamente il tema è dove reperire le risorse. L'orientamento è quello di evitare nuove tasse, si guarda invece a tagli alla spesa che dovrebbero essere selettivi e non lineari. E da Roma per il momento è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, giornata intensa si diceva a Palazzo Chigi, perché questo vertice con i sindacati sarà preceduto in realtà da un altro appuntamento, la discussione su Alitalia. Archiviato il dossier Ansaldo Energia, il governo passa la questione all'Italia. A Palazzo Chigi si siederanno attorno al tavolo alle 17 i vertici dell'azienda, i rappresentanti delle banche e dei fornitori. Per scongiurare il fallimento si pensa a una manovra di sistema che consenta alla compagnia di ottenere risorse per 300 milioni di euro, oltre all'aumento di capitale approvato dal CDA ma bocciato da Air France. Al tavolo, secondo indiscrezioni di stampa non confermate né smentite, potrebbe trovare posto anche l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, che sarebbe stato chiamato proprio da Palazzo Chigi per entrare nel capitale della compagnia. Il manager vorrebbe far salire gli aerei sui treni, ma l'operazione non è scontata, tanto che le dichiarazioni del premier Enrico Letta ieri sembrerebbero addirittura allontanarla. L'Alitalia non può stare da sola, ha detto ieri Letta a Sky, deve essere integrata dentro una grande alleanza internazionale se non vuole finire come il vaso di coccio fra i vasi di ferro del resto d'Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alla pura politica, con la tensione che resta alta all'interno del PDL e anche all'interno dello stesso esecutivo dopo le parole di Enrico Letta. Scongiurato il rischio di una crisi di governo, comincia ad affiorare qualche tensione fra Enrico Letta ed Angelino Alfano. Ad alimentare il primo scontro fra i due sono le parole del premier, secondo il quale con le vicende della scorsa settimana si è chiuso il ventennio berlusconiano perché Alfano è stato sfidato da Berlusconi, che voleva far cadere il governo, ma ha vinto la partita imponendo la sua leadership nel centrodestra. Un'uscita che non è piaciuta affatto al segretario del PDL. Berlusconi resta il nostro leader, non accettiamo ingerenze da Letta ed Epifani, ha avvertito Alfano alle prese con le divisioni interne e assediato dai falchi contrari ad una deriva centrista del partito, che in queste ore discute anche sulla proposta di Fitto che, sfidando proprio il segretario, ha chiesto di azzerare tutti gli incarichi per andare ad un congresso straordinario. Un clima da resa dei conti, insomma, che preoccupa lo stesso Berlusconi. Il leader è Angelino, fa così sapere il cavaliere, convinto che il vice premier sia in questo momento l'unico a poter tenere unito il partito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca, innanzitutto, con una notizia appena battuta dalle agenzie. Adam Cabobo, lo ricorderete, l'uomo che aggredì e uccise a picconate tre persone a Milano nel maggio scorso, era capace di volere. Questo l'esito della perizia psichiatrica disposta dal GIP di Milano, nella quale si spiega che il ghanese potrà essere processato e che la sua capacità di intendere era grandemente scemata, ma non totalmente assente. Cinque persone sono state arrestate a Torino con l'accusa di turbativa in diverse gare d'appalto, tra loro l'ex sovrintendente Francesco Pernice ed Ezio Henrietti, all'inizio degli anni Ottanta presidente della giunta regionale del Piemonte. Un primo filone ha riguardato alcuni appalti di ristrutturazione di edifici appartenenti al complesso della Venaria Reale o comunque di appalti gestiti dal consorzio. Non vi sono tra gli indagati altri dirigenti o funzionari dello stesso consorzio. Un'altra inchiesta di questa mattina, sulla quale poi torneremo nel corso della trasmissione, ci porta invece al sud, in Puglia. Fondi pubblici stanziati per la costruzione del nuovo porto di Molfetta, utilizzati in realtà per far quadrare il bilancio comunale, nonché per pagare fornitori, personale e spese correnti. La procura di Trani ipotizza una truffa da 150 milioni di euro, ha disposto gli arresti domiciliari per due persone e indagato su un'altra sessantina, tra cui il senatore PDL Antonio Azzollini, ex sindaco della città. I capi di imputazione mossi a ex amministratori pubblici e imprenditori sono, tra gli altri, associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato e attentato alla sicurezza dei trasporti marittimi. L'operazione D'Artagnan della Guardia di Finanza era partita nel 2010 a seguito di una denuncia dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo la quale c'erano irregolarità relative al contratto d'appalto per la realizzazione del porto della cittadina pugliese. Gli inquirenti stanno anche indagando per capire se tutto questo c'entri con il suicidio di Vincenzo Tangari, dirigente del settore contratti e appalti del comune di Molfetta, che si è tolto la vita nel marzo scorso gettandosi con l'auto proprio nel porto della cittadina. Giorgia Vizeman, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere questa parte e andare alla viabilità, facciamo il punto sul calcio. Insomma, ormai lo sapete, lo abbiamo già fatto lunedì scorso con Dario Ceccarelli. Lo sapete che questo è un periodo magico per me, perché insomma tutto alla Roma, la magica, Carlo Getta, buongiorno. Simone, buongiorno. Eccoci qua. No, la vera notizia secondo me è che siamo al 7 ottobre, basta guardare la data e ci sono già tre in fuga. Una di queste è ovviamente la Roma capolista, che mai era partita così bene, 7 vittorie in fila, però ci sono Napoli e Juventus a 19, poi un solco e quindi tutte le altre. Altra notizia è che il Milan è già fuori dai giochi, 13 punti di distacco dalla prima, non sono chiaramente recuperabili anche perché la qualità è quella che abbiamo visto ieri a Torino. Dunque il weekend ha detto questo, in attesa della sosta per la nazionale e poi di una partita che, come saprai bene, è stata molto chiacchierata, molto discussa, ed è Roma-Napoli, vero grande big match di questo inizio di stagione, e che alla fine è stato deciso verrà giocata il venerdì sera invece del sabato pomeriggio per la questione della manifestazione in ottava, eccetera. L'Italia è così. Naturalmente, venerdì sera alle 20:45. Intravedi, io ho qualche rischio dal lato della sicurezza pubblica comunque a giocare una partita così di sera. Che dici, Carlo? Ma sai, giocarla di sera. De Laurentiis aveva proposto di giocarla a mezzanotte del sabato. Era anche un'ipotesi affascinante. Sai, comunque si sarebbe giocata il sabato alle 18. Mettici il cambio dell'ora, mettici il viene buio presto, insomma non vedo tutta questa gran differenza. Certamente sarebbe stato imbarazzante un altro provvedimento. Si era parlato anche di un'inversione del campo, cioè di giocare a Napoli invece che a Roma come era previsto dal calendario, e quello sì sarebbe stato un po' falsare il campionato. Però intanto ci teniamo la Roma prima della classe, il Napoli che comunque insegue, la Juventus che tutti dicono non va bene, è in crisi, ha qualche problema, però ne ha 26, ha pareggiata una a Milano con l'Inter, dunque queste tre sono già scappate. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Altre 700 persone sono sbarcate in Sicilia nel giro di due giorni, i centri di accoglienza sono praticamente al collasso, sono quasi 200 intanto le vittime accertate del naufragio di Lampedusa. L'Europa inizia ad intervenire, mercoledì Barroso sarà appunto sull'isola a Lampedusa, mentre il commissario europeo all'energia Oettinger sollecita un esame della politica europea sui profughi. La domanda dice se l'Italia è in grado da sola di assicurare e gestire in modo competente ma anche umano il confine esterno o se è necessario un meccanismo della distribuzione dei profughi dentro l'Unione Europea. Dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate: penso che esista un'evasione di sopravvivenza, meno tasse, aggiunge parlando a Radio 24, vuol dire meno evasione. Oggi intanto l'incontro tra governo e sindacati, si ipotizza un taglio del cuneo fiscale da 4-5 miliardi. Il Nobel per la medicina è stato assegnato a due americani ed un tedesco, hanno scoperto il sistema di trasporto delle molecole all'interno delle cellule. Altro tema che affronteremo più avanti in effetto giorno: in Egitto riesplosa la violenza, almeno 50 le vittime negli scontri di ieri, autobomba contro la polizia nel sud del Sinai e forze dell'ordine in allerta anche a Sharm el Sheikh e Taba. E veniamo in apertura di questa seconda parte a parlare proprio di evasione di sopravvivenza. Ve lo stiamo chiedendo sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno se secondo voi esiste, scrive Paolo Costantini, esiste, tutti lo sanno, solo che fa comodo far finta di no. Immagino che concordi, Roberto Corsi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Già ospite ai microfoni di Radio 24 e per la precisione del nostro Alessandro Milan, ormai quanti giorni è che non batte scontrino lei? Io ho superato i 140 giorni. 140 giorni senza battere scontrino e la finanza non è ancora arrivata? Ma guardi, io penso che io ho enorme rispetto delle istituzioni, non mi reputo assolutamente un evasore fiscale, è uno stato di necessità il mio. Come ha detto Befara, esiste lo stato di necessità. Ma perché lei dice che esiste uno stato di necessità? Insomma, in fondo lei non paga l'IVA in questo momento, in sostanza, non battendo scontrino, e però fa uno sconto ai suoi clienti corrispondente alla percentuale dell'IVA, uno sconto del 22 adesso. 21%, sto cercando di incentivare in tutti i modi, in tutte le forze che restano, noi imprenditori, commercianti, microimprese italiane, siamo allo stremo praticamente, perché siamo vessati da un fisco criminale, cioè vale a dire quando la tassazione supera la capacità contributiva del contribuente stesso, non si pagano più le tasse, ma si subisce un'estorsione vera e propria. E quindi come difendersi? Come difendersi? Difendersi per la sopravvivenza dell'azienda, della propria famiglia, e questo diventa una legittima difesa da applicare senza ma e senza se. Infatti vi invito tutti quelli che sono in difficoltà a non fare, a non commettere gesti estremi, quei suicidi, perché si abbandonano solo le proprie famiglie ed è un atto forse alla fine anche egoistico, troppo semplice. Bisogna combattere con le leggi, con il giusto, vale a dire io voglio pagare le tasse ma devo essere messo in condizione alla mia capacità. Però Corsi, si faccia dire che lei in questo momento però le leggi non le rispetta. Guardi, io sono pronto a chiudere l'attività se lo Stato che ho sempre rappresentato, che io ho sempre onorato per oltre 20 anni di tasse, è pronto a sostenermi come uno dei paesi europei, come in Germania, in Francia. Io vado a dire, sono disposto a chiudere, ma si deve preoccupare della mia famiglia. Siamo al collasso, non è il problema Corsi. Il problema è che centinaia e centinaia di commercianti ogni giorno abbassano la saracinesca. E c'è qualcun altro che sta seguendo il suo esempio dalle sue parti? Lei in provincia di Cosenza, sì. Dov'è? Come si chiama il suo paese? Sì, abbiamo Massimiliano Paolucci su Roma, abbiamo Franco Sibilia a Conversano in provincia di Bari, mi sono stati segnalati altri commercianti in Italia, ma quello che accade sulla mia pagina Facebook è che la gente vuole scendere in piazza, cosa che io ritengo inopportuna, è lo sciopero fiscale, quello che può portare a una soluzione, a un dialogo con il governo. Grazie Roberto Corsi, commerciante da 140 giorni, mi ha detto 140 giorni che non batte scontrino per protesta, dice, per necessità ed esasperazione. Buona giornata. Buona giornata a voi. E saluto, adesso cambiamo argomento e passiamo a parlare dell'inchiesta di questa mattina che della Procura di Trani, si indaga per truffa, è stato sequestrato il porto di Molfetta, 2 arresti, 50 indagati, sono stati bloccati 33 milioni di fondi che sono appunto fondi destinati al porto di Molfetta. Saluto Antonio Azzollini, senatore. Buongiorno, che è tra gli indagati e che è stato fino al 30 ottobre scorso il sindaco di Molfetta. Buongiorno, sì, buongiorno Azzollini. Allora, si ipotizzano una serie di cose. Ho detto 50, in realtà gli indagati sono 62, tra cui anche lei. Allora, si parla di una vera e propria truffa, cioè si ipotizza che questi finanziamenti arrivati dallo Stato per il porto di Molfetta, per questa grande infrastruttura, siano stati utilizzati in realtà per le spese correnti. Non è vero, questo non è vero. Non è così per il porto, naturalmente è una grande struttura che è lì, enorme, in buono stato di avanzamento e che ha visto anche, una ulteriore grandissima opera, che è quella di rimozione di decine di migliaia di ordigni bellici che nel frattempo, mentre i lavori andavano avanti, si ritrovavano. Quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda proprio gli ordigni bellici, che sono una quantità enorme, Azzollini, quanti sono? Ho detto, credo che ne siano tolte qualche decina di migliaia. Si parla di circa 50.000. Ecco, sì, ma mi pare che ce ne siano ancora, purtroppo, ancora altri, mi pare. Sento una cosa, è proprio quella la parte che la riguarda, da quel che si è capito dell'inchiesta. Naturalmente siamo alle prime battute. È molto corposo, l'avviso di garanzia, quindi in tutta onestà ancora non ho potuto leggerlo tutto. Perché si dice che tra i reati contestati a lei c'è l'abuso d'ufficio, per cosa? Perché è stata autorizzata una transazione con l'impresa, no? che avrebbe dovuto rimuovere questi ordigni. Ci spieghi. Così, credo che sia così la cosa. Certamente è stata fatta una transazione con l'impresa perché l'impresa contestava al comune dei ritardi molto gravi in ragione della presenza degli ordigni medici. Questo credo che sia, almeno io i fatti sono questi, perché ricordo, ed è naturalmente assolutamente naturale che trovandosi di fronte ad una quantità così grande dell'ordine di decine di migliaia degli ordini bellici, è chiaro che i lavori hanno avuto qualche difficoltà, ma attenzione, nel frattempo stiamo facendo un'altra enorme opera pubblica. Tenga conto che il comune... Ma voi, mi scusi, no, però rimaniamo sulla cosa, voi avete in sostanza il comune di Molfetta, quando lei era sindaco, ha transato con l'azienda, questa è la sostanza, e i magistrati ipotizzano un danno economico per il comune da 8 milioni di euro, questo è... Sì, vedrò come lo ipotizzano, lei mi dice che... caso ciò è un eventuale abuso d'ufficio, personalmente non lo capisco, però come sempre sono pronto a chiarire tutto alla magistratura, quando mi verranno contestate con puntualità le cose spero di poter chiarire tutto. Accuse lei ritiene comunque false, cioè ritiene di essere... No, false non ritengo, delle cose che fa la magistratura non ritengo siano false, ritengo che non mi paiono fondate, questa è un'altra questione. Io ho molto rispetto e ho molta attenzione verso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma dette così come mi vengono riferite le ritengo infondate. Ritiene che in tutta la vicenda della realizzazione del porto non ci sia stata truffa, sia stato tutto regolare? No, assolutamente no. Peraltro, cioè, in questi termini non capisco la truffa. Ho detto sono pronto a chiarire tutto quando tutto mi verrà, diciamo, quando mi sentiranno. Sono prontissimo, come è giusto che faccia un cittadino, diciamo, che riceve un avviso dell'autorità giudiziaria, e allora chiarirò tutto. Ma per quel che mi riguarda credo che non ci sia, ma truffa proprio non capisco la truffa, questa non riesco a capirla, ma in ogni caso quando mi diranno, diciamo, il fatto che mi si contesta, io spero di poter rispondere convincendo il magistrato. Ultima domanda, Azzollini, sul cuore dell'inchiesta, ossia quest'ipotesi che i fondi erogati siano stati utilizzati per le spese correnti del comune. Questo non c'è, no, questo non c'è. Non è mai avvenuto, assolutamente, diciamo. Non è mai avvenuto. No, viceversa, nella transazione, adesso se ricordo male, dei soldi che potevano essere utilizzati per la spesa corrente sono invece stati usati in conto capitale, questo lo ricordo perfettamente. Grazie ad Antonio Azzollini, senatore, come avete sentito, presidente della Commissione Bilancio del Senato, tra l'altro indagato in questa vicenda. Abbiamo voluto sentire anche la sua opinione dopo avervi fatto sentire naturalmente il servizio che parlava delle accuse della Procura. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, nel frattempo naturalmente ci sono le informazioni dalla Borsa. Parleremo con Daniele Biacchessi, come tutti i lunedì e i venerdì, l'inchiesta realizzata da Daniele Biacchessi questa settimana ci parla dei 50 anni dalla strage del Vajont, e poi ci occuperemo di Egitto. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Altri 15 corpi, tra cui quelli di due donne, sono stati recuperati dai sommozzatori a Lampedusa. Bilancio ufficiale a 211 vittime, 700 persone sbarcate in Sicilia nel giro di due giorni e centri di accoglienza praticamente al collasso. Intanto l'Europa dice, alla luce della tragedia, parla di un esame della politica europea sui profughi. Oggi primo incontro tra governo e sindacati sulla legge di stabilità. Nel frattempo l'emendamento del Partito Democratico al decreto IMU, che propone di esentare dalla prima rata dell'imposta solo le case con una rendita catastale inferiore a 750 euro, è tra quelli dichiarati inammissibili. Il Nobel per la medicina è stato assegnato a due americani e ad un tedesco. Hanno scoperto il sistema di trasporto delle molecole all'interno delle cellule. Adam Cabobo era capace di volere quando nel maggio scorso aggredì ed uccise a picconate tre persone. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta dal GIP di Milano. Il fine settimana calcistico consegna al campionato un terzetto di testa con Roma, Napoli e Juventus. La capolista e i partenopei alla prova dello scontro diretto tra due settimane. Si giocherà venerdì sera alle 20:45. E veniamo, come ogni lunedì, all'inchiesta di Daniele Biacchessi, dedicata questa settimana nella quale si celebrano i 50 anni dalla tragedia del Vajont, esattamente a quella vicenda. E la tarda sera del 9 ottobre del 1963, 50 anni fa. I programmi televisivi si interrompono e sullo schermo appare un giornalista che legge le prime righe di agenzia e dice: poco fa il Monte Toc si è sbriciolato, la terra è caduta sulla diga del Vajont provocando un'onda lunga che ha travolto alcuni paesi, Longarone non c'è più. Gli italiani stanno guardando la televisione, l'incontro di calcio Rangers Glasgow e Real Madrid. Solo il giorno dopo emerge con tutta la forza il peso della strage del Vajont. 1917 morti, 1450 soltanto a Longarone in soli 4 minuti. Ho perso nel disastro i genitori, i cui corpi poi non sono stati neanche riconosciuti, ritrovati, e 5 fratelli con coniugi e anche bambini. Tra vari parenti, mi pare che secondo un certo conto l'ho fatto a suo tempo, ho perso circa una trentina di parenti. Ecco. Perché non abbiamo ritrovato più niente, neanche un oggetto, e tantomeno le persone. Io ricordo la voce di mia mamma che dice ormai è finita, ma anche le imprecazioni subito. Seguite poi anche da preghiere, ma la prima imprecazione è stata maledetti, quindi... Io ricordo che mia madre diceva sempre: qui si fa la fine del topo. Una strage di Stato, iniziata 35 anni prima. Il 4 agosto 1928 il professor Giorgio Dal Piazza presenta la prima relazione sul bacino artificiale del Vajont e scrive: le condizioni non sono peggiori di quelle che si riscontrano nella maggior parte dei bacini montani del Veneto. Così nel gennaio del 29 la società idroelettrica veneta devia il torrente Vajont per produrre energia elettrica. Nel 1940 200 metri, una diga alta, un serbatoio della capacità di 50 milioni di metri cubi di acqua. Nel 57 la SADE, la società adriatica di elettricità, modifica le dimensioni dell'invaso, 266 metri di altezza, 150 milioni di metri cubi d'acqua. Nel 59 giunge il primo segnale di avvertimento. 3 milioni di metri cubi di roccia si staccano precipitando nell'invaso del Vajont e provocano la morte di un operaio. E nel 60 una frana di 700.000 metri cubi di roccia si stacca dalla parete del Monte Toc e cade nel bacino. La frana lavora e come un tarlo modella la terra, la plasma e la trasforma. Il 9 ottobre 1963, 50 anni fa, alle 22.39 puntuale, la frana si stacca all'improvviso, compatta, come fosse un unico blocco, rovina sulla l'acqua trattenuta dalla diga, 260 milioni di metri cubi composti da rocce, strade, alberi, terra, uomini, donne, bambini. Un'onda di 50 milioni di metri cubi si divide poi in due direzioni. Longarone viene spazzato via. Di chi è la colpa? E qualcuno soprattutto ha pagato per le sue responsabilità? Il 17 dicembre del 69 al Tribunale dell'Aquila si conclude il processo di primo grado. L'accusa chiede per tutti gli imputati 21 anni per i reati di disastro colposo, omicidio plurimo e aggravato. Il 25 marzo del 71 la Corte di Cassazione conferma il verdetto del processo di secondo grado, ma riduce le pene ad Alberico Biadene e Francesco Sensidoni, condannati rispettivamente a 5 anni e 10 mesi di reclusione. In seguito a Biadene verranno condonati 3 anni per problemi di salute. Il 27 luglio del 2000, 37 anni dopo, a Palazzo Chigi viene firmato l'accordo di transazione per il risarcimento dei comuni danneggiati, in primis Longarone. Enel, Montedison e Stato si suddividono ciascuno il 33% della somma dovuta. Per la strage del Vajont, ad oggi, 50 anni dopo, esiste certamente una verità storica, ma non vi è stata alcuna giustizia penale. Dunque, adesso, prima di chiudere questa parte e poi passare a Mario Platero con America 24, voglio parlare di Egitto, dove riesplosa la violenza, almeno 50 vittime negli scontri di ieri, un'autobomba contro la polizia nel sud del Sinai e soprattutto forze dell'ordine in allerta anche a Sharm el Sheikh e Taba. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa dobbiamo attenderci a questo punto per le prossime settimane? Che rischi effettivi ci sono, Alberto? Ma i rischi ci sono, sono concreti, li abbiamo visti anche in questi giorni, in queste ore. Poi, se dobbiamo riferirci alla zona di Sharm el Sheikh, alla zona di Ras Mohammed, quella più turistica, e vediamo che nella cartina, nella mappa dei disordini e delle azioni terroristiche si sta avvicinando l'onda, perché oggi è stata colpita la cittadina di Al-Tur, qui c'è stata un'autobomba nella sede della polizia, con almeno un paio di morti, diversi feriti tra i poliziotti, e Altur è un po' la capitale del Sinai meridionale. Siamo sulla strada, anche se ancora un po' lontani, proprio da Sharm el-Sheikh. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Altri 15 corpi recuperati dai sommozzatori a Lampedusa, 211 finora le vittime. L'Europa promette interventi o comunque una riflessione. Oggi primo incontro tra governo e sindacati sulla legge di stabilità, si ipotizza un taglio del cuneo fiscale da 4-5 miliardi. In Egitto 50 vittime negli scontri di ieri, la sicurezza del Cairo lancia l'allarme, massima allerta a Sharm el-Sheikh nel canale di Suez. Calcio, si giocherà venerdì 18 alle 20.45 la partitissima tra Roma e Napoli. E ora è il momento di America 24, buongiorno a Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone, grazie per la linea da New York, Mario Platero. Bene, abbiamo una vittima illustre dello shutdown del governo americano. Siamo al giorno 8, doveva tenersi oggi a Bruxelles la seconda riunione importante per la creazione di un'area di libero scambio transatlantica. Ebbene, gli americani non sono venuti proprio perché con lo shutdown la squadra non poteva viaggiare, ma il governo americano in realtà resta attivo e operativo. Il segretario di Stato John Kerry dice: i terroristi potranno cercare di scappare ma non potranno nascondersi. A cosa si riferisce? Beh, a un doppio attacco che è stato compiuto il fine settimana scorso dagli Stati Uniti. Il primo a Tripoli, è stato catturato Al-Libi, il responsabile degli attacchi alle ambasciate americane in Kenya e in Tanzania nel 98, e poi c'è stata un'operazione dei Navy SEALs in Somalia per cercare di catturare o comunque danneggiare le operazioni di Al-Shabaab, che è quel gruppo terroristico responsabile dell'attacco a Nairobi. L'America dunque continua bene o male a lavorare. Non dal punto di vista politico, perché oggi siamo al giorno 8 dello shutdown. Il presidente della Camera John Boehner ieri ha detto: io non sono pronto a fare alcuna concessione fino a che il presidente non mi farà lui una concessione sull'Obamacare, cosa che Obama ovviamente non intende fare. Non so come andrà a finire, ma nel frattempo Chuck Hagel, il segretario al Pentagono, ha richiamato al lavoro ben 400.000 impiegati, dipendenti civili del Pentagono, e dunque gli 800.000 di cui vi parlavo la settimana scorsa sono già stati dimezzati. Altra novità, un'inchiesta del New York Times di ieri ha rivelato che in realtà i repubblicani avevano pianificato questa operazione al di là del negoziato che stavano cercando di portare avanti con il presidente americano, cioè volevano lo shutdown, era stato programmato a tavolino da Ed Meese, ex consigliere del presidente Reagan, già da due anni a questa parte. Ecco, in questa confusione l'America però, vi dicevo, va avanti, forse ci sarà anche uno slittamento per una cosa che ci riguarda direttamente, cioè la partecipazione dell'America all'Expo di Milano del 2015. Di fatto però l'impianto c'è, le cose andranno avanti. Vi propongo una mia chiacchierata con il commissario del governo per l'Expo 2015 di Milano, Giuseppe Sala. Buongiorno Sala. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, alimentare su ogni fronte all'Expo di Milano. Ma senz'altro, il tema è quello dell'alimentazione ed è un tema che alla fine raccoglie l'interesse di tutti. Chi è più interessato ad aspetti scientifici, sociali, culturali, e chi è anche più semplicemente ma solidamente interessato agli aspetti più sensoriali, palatali, il piacere che l'alimentazione dà. Ogni paese appunto interpreterà a modo suo il tema. Qualcuno lavorerà sul tema della scarsezza degli alimenti, qualcun altro sulle proprie tipicità, qualcun altro ad esempio anche su come i prodotti cambieranno per essere più sani e sicuri. Ecco, parliamo di America, perché l'America poi è il grande, il granaio del mondo. L'America ha inventato il fast food, l'America per l'alimentazione ovviamente ha inventato le culture per i miglioramenti genetici e così via, così via. Lei ha fiducia che ci sarà l'America alla fine, avremo la bandiera, avremo il padiglione con la bandiera americana? Ma assolutamente sì, il governo americano ha ricevuto offerte, da quanto capiamo, molto interessanti. Credo che sia veramente questione di pochi giorni o settimane, ma su un tema così delicato per l'umanità come il tema dell'alimentazione, gli americani non rinunceranno a dire la loro e anzi a svolgere il loro ruolo guida nell'impostazione. Ecco, americano è anche il designer della mascotte, no? Mi pare avete annunciato un po' di tempo fa che è Disney che si è aggiudicato il design e la distribuzione e la produzione della mascotte. Abbiamo recentemente annunciato, Disney ideerà e produrrà dei personaggi che saranno personaggi alla Disney, ma nuovi, evocativi del tema dell'alimentazione. Sarà più che una mascotte, una famiglia di personaggi. Senta, beh, insomma, quando si parla di alimentare il futuro si parla di alimentare così, diciamo, molto sano. Io devo dirle che io adoro il junk food americano, cioè quegli hamburger che magari sono anzi non solo hamburger, bacon cheeseburger, oppure il tuna melt e così via, così via. Ecco, ci sarà anche uno spazio per il junk food nell'Expo 2015? Difficile, ma probabilmente ci sarà uno spazio in cui i produttori del cosiddetto junk food cercheranno di dimostrare invece i loro prodotti dove vanno, quanto stanno migliorando, daranno una loro visione del futuro. E quindi, insomma, l'Expo stiamo parlando di un happening, stiamo parlando di un posto, quasi di un theme park, di un posto dove si va, si passa la giornata, si vedono delle cose meravigliose che riguardano il futuro, si dà soddisfazione al palato. Alla fine lo scopo per cui si fa un'esposizione universale è educativo, ma oggi non si può che immaginare di lavorare su quel profilo che gli anglosassoni definiscono edutainment. Noi dobbiamo educare facendo divertire. Avrete un premio? Ci sarà un prodotto o un qualche cosa che alla fine riceverà un premio? E se ci fosse, lei cosa sceglierebbe? Più che un prodotto, in realtà nelle regole dell'esposizione universale, i vari padiglioni, i vari paesi hanno un premio. E quindi sarà molto interessante su un tema così affascinante capire quale paese del mondo riuscirà a essere più evocativo rispetto alla problematica di cui stiamo parlando. È una bella competizione, ovviamente una competizione amichevole. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuate a seguirci su Twitter, su America24, mandatemi i vostri commenti a @MarioPlatero ed eccoci alla canzone del giorno. L'ultimo Expo universale a New York è stato nel 1964 e dunque vi propongo la canzone hit, la numero uno di quell'anno, dei Beatles, I Want to Hold Your Hand, voglio tenerti la mano, molto attuale, molto appropriata, considerando quel che sta capitando a Washington. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, oh please, say to me, and let me be your man, and please, say to me, you'll let me hold. Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! E chiudiamo qua, un ringraziamento a Laura Faggini in redazione, Pietro Lacorte in regia, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter Simone Spezia, se volete ci risentiamo tra un attimo con un breve aggiornamento delle notizie. Ricordati! Mancano 70 giorni al pagamento della seconda rata IMU.